Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno, benvenuti, grazie per essere con noi. Prima di andare a sentire il nostro sommario, una breve considerazione. Molti italiani sono a letto, messi KO da una sindrome simile influenzale. Non è ancora quella vera, ma sa essere cattiva. E allora meglio attrezzarsi, quindi aiutare il nostro organismo a difendersi. Naturalmente lo sappiamo, anche la dieta ci può dare una mano, una dieta varia ed equilibrata che dia un po' la preferenza ad alimenti ricchi di vitamina C. E adesso una domanda per voi. Tra un kiwi e un'arancia, chi dei due contiene una maggiore quantità di vitamina C? Se uno di voi avesse tempo e desiderio di rispondere, bene, può scriverci un'email a esserebenessere @radio24.it. Il primo ascoltatore che raggiungerà la nostra posta elettronica con la risposta giusta riceverà a casa un libro. E adesso siamo pronti per il nostro sommario. Fegato, se ingrassa sono guai. Voglia di avventura, mollo tutto e vado via. Zen in pillole, impara a sorridere. Se ingrassa sta male, non perché non si piaccia, non stiamo parlando di un adolescente alle prese con qualche chiletto in più, ma del nostro fegato che appesantito dal grasso si trasforma e non riesce più a funzionare bene. Dai medici questa condizione viene chiamata steatosi epatica non alcolica, è un problema diffuso ed è un problema anche in aumento, di cui però si conoscono le cause, per il quale ci sono terapie efficaci e questo già ci rassicura. Ma come sempre diciamo, meglio prevenire che curare, quindi oggi tanti consigli per non far ingrassare il nostro fegato, ma ci occuperemo anche soprattutto di chi magari per caso, controllando le transaminasi o con un'ecografia, si è sentito dire dal proprio medico: caro signore, il suo fegato è grasso. 824-0024, questo è il nostro numero verde. I messaggi al 349-238-6666. In linea con noi abbiamo il dottor Stefano Fagiuoli, direttore di gastroenterologia agli ospedali riuniti di Bergamo. Dottore, buongiorno. Buongiorno a tutti. Dottore, noi abbiamo metabolizzato il concetto che il grasso addominale, la pancia o la pancetta che sia, è un fattore di rischio per la nostra salute e in particolare per le malattie cardiovascolari. Di questo ormai siamo consapevoli. D'altronde non occorre fare tanti esami per capire che siamo sovrappeso, basta un occhio allo specchio e uno alla bilancia e già capiamo. Ma c'è un grasso di cui parliamo oggi, più insidioso, che si deposita nel nostro fegato mettendolo un po' in crisi. Noi naturalmente non possiamo vederlo ad occhio nudo, ma sicuramente lei può aiutarci a sospettare la sua presenza. Sì, innanzitutto diciamo che il fegato grasso non è invariabilmente una malattia. Sì. Anche perché solo circa il 10% o meno dei casi può portare a condizioni gravi come la cirrosi. Sì. Però è comunque una condizione patologica che denota un'alterazione del fegato e al di là della steatosi o del danno da fegato da alcol, in genere sono gli squilibri alimentari o le alterazioni alimentari che condizionano il deposito di grasso nel fegato e un ingrossamento dell'organo. Consideriamo che avere il fegato grasso è avere un fegato che lavora sempre al limite, quindi svolge le sue normali funzioni, ma lo fa in condizioni di sforzo massimo. Sì. E questo ci spiega perché non dà dei segni particolari e può essere silenziosa come condizione. Però ci sono delle cose molto evidenti che ci devono quantomeno indurre a sospettare la presenza di steatosi. Certamente un'alimentazione troppo ricca, in calorie soprattutto, ma in particolare di grassi saturi, grassi animali, magari accompagnata anche a un consumo di alcol inadeguato, oppure un'obesità franca o un sovrappeso. Ricordiamoci che per un uomo o una donna media adesso è diventato importante come riferimento il giro vita. Sì. Per cui donna o uomo medio si definiscono oltre 102 centimetri nell'uomo e oltre 88 nella donna come parametri di pericolo per una presenza di fegato grasso. E ovviamente alterazioni di colesterolo e trigliceridi o familiarità per queste alterazioni. La presenza di ipertensione arteriosa, perché entra in una sindrome generale, e anche ovviamente il diabete, che fa parte di questo corteo di sintomi. Quindi chi ha caratteristiche di questo tipo certamente è più a rischio di altri e dovrebbe quantomeno verificare che non ci sia questa alterazione. 824 0024, questo è il nostro numero verde. Dottor Fagioli, allora, lei ha passato in rassegna alcuni indicatori che possono farci sospettare la presenza di un fegato un po' più grasso del normale, del dovuto. Proviamo a tratteggiare l'identikit? Sì. La nostra donna è quindi una donna che? Ma insomma, diamo una definizione generica che ovviamente avrà i limiti che ha, però potremmo definirla una signora un po' morbida, con qualche chilo di troppo, certamente golosa, che magari non svolge attività fisica e che ha una familiarità per qualche affezione tipo il diabete o l'ipertensione, e diciamo che questo potrebbe essere un po' lo stereotipo. Il nostro uomo invece, dottore? L'uomo, diciamo, pancetta, che uomo con pancetta, mezz'età, una pancetta pronunciata, un buon frequentatore di ristoranti, vita sedentaria, magari con un po' di ipertensione, diciamo che è il candidato principe. Senta, vengono spesso demonizzati i grassi, anche lei li ha messi nei segni da tenere, che potrebbero in qualche modo rivelare la presenza di fegato grasso. Sono sempre messi nel libro nero, però un po' di grasso serve, no? No, certamente. Credo che il concetto fondamentale sia certamente di qualità e anche di quantità. Sì. Per cui quello che conta alla fine è il conto totale di calorie ingurgitate in eccesso rispetto a quanto si consuma. Sì. Ed è chiaro che a questo punto la quantità la fa da padrone. Dopodiché, se il consumo di grassi è soprattutto o solo a carico dei cosiddetti grassi saturi, cioè i grassi animali, e si distinguono facilmente perché potremmo chiamarli grassi solidi, quindi burro, strutto, formaggi, è chiaro che quelli sono peggio, se vogliamo usare un termine un po' grossolano, ecco. Però quello che conta è il bilancio tra quello che si mette dentro e quello che si consuma. E queste due cose sono nei due piatti della stessa bilancia, e ricordiamoci che il problema sovrappeso è già importante in Italia, perché ormai circa il 35% della popolazione lo è, e quasi il 10-15% è in una condizione di obesità franca. Quindi questi sono i fattori di rischio senz'altro principali. Andiamo al vino e ai superalcolici, poi stanno arrivando già numerosi messaggi. I nostri ascoltatori vogliono sapere il suo parere su alcuni alimenti in particolare. Vino e superalcolici? Anche qua vale la stessa regola per i grassi, no? Moderazione. Direi che il principio è sempre lo stesso, non devono certo essere demonizzati, però dobbiamo ricordare un distinguo fondamentale. Sì. Chi ha una qualunque malattia di fegato deve bandire dalla sua alimentazione qualunque bevanda che contenga anche minime quantità di alcol. Questo è un mondo a parte. Per chi non ha problemi di fegato, è chiaro che uno o due bicchieri di vino o l'equivalente una o due lattine di birra non sono un problema particolare, anzi diciamo che aiutano in molte altre funzioni dell'organismo. Come sempre, forse il concetto principale è non eccedere, quindi poco ma buono. Aldo da Ferrara ci scrive al 349-238-6666: le uova fanno bene o male al fegato? Chi sa la verità? Ma lei la sa, dottor Fagioli? Ma non so se so la verità. alcune cose nelle quali credo. Vediamo se poi Aldo sarà soddisfatto della sua risposta. Certo. Proviamo. Ma io credo che ci sia un po' un mito da sfatare, no? C'è sempre stato il concetto della vecchia dieta in bianco per chi ha mal di fegato, no le uova per chi ha mal di fegato. In realtà le uova contengono molte sostanze che sono protettive nei confronti del fegato: la colina, la metionina, molti fosfolipidi. Per cui in realtà, per chi soffre di malattie del fegato, potrebbero addirittura essere consigliabili le uova, non in eccesso, una o due volte alla settimana. Non fritte, immagino. Meglio non fritte, che meglio sono le più buone, che non facciano parte di salse come la maionese, perché sì, allora perdiamo i vantaggi e acquisiamo tutti gli svantaggi. Sì. Il discorso è diverso per almeno due categorie di persone: per chi soffre di problemi biliari, per esempio i calcoli, e allora in questo caso le uova stimolano la via biliare e si corre il rischio di incorrere in una vera e propria colica. E l'altro sottogruppo di persone sono i cirrotici, che hanno una complicanza grave della loro malattia, che è l'encefalopatia. In questo caso non è l'uovo in sé, ma in quanto alimento molto ricco di proteine che il loro fegato fa fatica a smaltire. Quindi sono solo queste le due vere limitazioni. Quindi, insomma, l'uovo è permesso. Assolutamente. Tante si fa. E quindi abbiamo capito che anche quelli che noi pensiamo essere i nemici del nostro fegato non lo sono se assunti in buone quantità. Assolutamente. Vero? E c'è anche una buona notizia, perché anche il caffè, una delle bevande più amate, ha mostrato proprietà interessanti per il nostro fegato. In linea con noi abbiamo il professor Francesco Visioli, ordinario di fisiologia presso l'Université Pierre Marie Curie di Parigi. Buongiorno professore. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Che tempo fa a Parigi? Molto nuvolo, vento e freddo. Va bene, allora stiamo meglio noi qua con il sole. Professore, che cosa hanno scoperto di nuovo, di interessante, le ricerche sul caffè? Ma del caffè gli ascoltatori più fedeli si ricorderanno, abbiamo parlato qualche puntata fa. La novità qual è? È stato pubblicato uno studio molto interessante fatto in Finlandia su 60.000 persone, quindi un numero molto ampio di pazienti, o meglio di soggetti. Ecco, queste persone, ricordiamo anche che i finlandesi sono i più forti consumatori di caffè in Europa e forse anche nel mondo. Queste persone sono state seguite per vari anni ed è stato visto che cosa bevevano, quanto caffè bevevano e quanti casi di tumore al fegato sviluppavano. E si è visto che i forti bevitori di caffè hanno una minor probabilità di sviluppare tumore al fegato. Ovviamente non si sa se le due cose sono correlate in modo causale, cioè non si sa se veramente il caffè è protettivo. Però questo è uno studio molto interessante, perché ne conferma altri, fatti in Italia peraltro dal professor Lavecchia, che dimostrano che effettivamente chi beve caffè è protetto in un qualche modo anche dall'insorgenza di tumore al fegato. Quindi questo non vuol dire che dobbiamo, vale sempre la moderazione, non vuol dire che dobbiamo bere 15 caffè al giorno, ma sicuramente che i ricercatori sono sulle tracce di molecole che potrebbero dimostrarsi interessanti, magari aprire nuove strade per farmaci e per cure del fegato, vero professore? Esattamente, non dobbiamo pensare che il fegato sia, che il caffè sia una medicina, quindi non dobbiamo bere caffè nella convinzione che ci protegga dal tumore al fegato, però le sostanze di cui avevamo parlato nell'altra puntata, quelle che generalmente si chiamano antiossidanti, una volta ingerite, quando noi beviamo il caffè, vengono filtrate dal fegato e probabilmente durante questo filtraggio che il fegato fa nei confronti del sangue e di tutte le sostanze che ci passano, durante questo filtraggio le sostanze probabilmente svolgono un'azione benefica. Professore, rapidamente, tra gli alimenti naturali, la tradizione popolare suggerisce anche il cardomariano come protettore del fegato. Ci sono delle ricerche che sono andate a verificare se questa che sembra, no, è un consiglio un po' che arriva dalla tradizione popolare, abbia un fondamento oppure no? Dunque, il fondamento c'è, mancano ancora degli studi controllati nell'uomo, perché ovviamente non possiamo somministrare a qualcuno il cardomariano, poi andargli a prelevare il fegato per vedere se c'è un effetto. Questa diventa un po' difficile. Quindi diventa un po' difficile. Quindi gli studi per il momento si limitano a modelli molto semplificati, però il cardomariano contiene una sostanza, o meglio un insieme di sostanze, che si chiamano silimarina. Il cardomariano è ricco in silimarina, probabilmente ha un'azione effettivamente che si chiama epatoprotettrice, cioè protegge il fegato da vari malanni. Però ricordiamo che chi è malato di fegato deve comunque seguire i consigli del medico, dell'epatologo, e non ricorrere al cardomariano come adiuvante, come aiuto della terapia. Certo. Professore, la ringrazio per essere stato con noi, le auguro una buona giornata. Grazie a voi. Buona Parigi. Grazie a tutti gli ascoltatori. Alla prossima. Grazie, grazie. E noi ritorniamo in studio con il dottor Fagiuoli. Tante sms al 349-238-6666. Ad esempio, un nostro ascoltatore ci scrive, Giovanni De Rimini. Si dice che il fegato grasso non dia segnali. Invece io ho scoperto di averlo proprio perché mi sentivo un peso doloroso sotto le costole a destra e non riuscivo a digerire bene. Adesso sono a dieta e sono tornato nuovo. Auguri, ci scrive. Dottor Fagiuoli, io direi, lei è vero che non dà grandi segni, vero il fegato? Sì, resiste. È raro che il fegato faccia male, però può succedere e succede in genere quando il rigonfiamento, da qualunque causa sia, è piuttosto rapido e abnorme, è per questo che è molto raro che faccia male. Quello che è più facile che succeda è che gli stessi motivi che possono dare comunque un danno in termini di accumulo di grasso al fegato, possono in realtà condizionare o una cattiva digestione o un alterato transito intestinale. Ecco allora che se c'è del meteorismo o del gonfiore, il nostro colon che passa proprio sotto al fegato e ci si appoggia può causare per esempio una sensazione fastidiosa di dolore, o lo stesso sovrappeso può essere un fastidio di tensione, per cui non fa male generalmente, ma ci sono alcune condizioni in cui questo può avvenire. Allora, non da segni in generale, ma io direi ai nostri amici da casa, intanto che abbiamo il dottor Fagioli, approfittiamone. Quindi se sentite un indolenzimento o qualcosa insomma che non vi torna, 824 0024 oppure 349 238 6666. Una mela al giorno. Cercansi uomini per viaggio pericoloso, salario basso, freddo tremendo, lunghi mesi di completa oscurità, pericolo costante, ritorno in dubbio, onore e riconoscimenti in caso di successo. Voi rispondereste a questo appello? Bene, molti lo hanno fatto, persone proprio disposte a lasciare il certo per l'incerto, amanti dell'avventura, sprezzanti del pericolo, uomini e donne di fegato, mi verrebbe da dire oggi, tanto per restare in tema. Ma che cosa spinge a scelte così coraggiose per certi versi estreme? In linea con noi abbiamo il professor Giampaolo Perna, responsabile del Centro per i Disturbi d'Ansia dell'Ospedale San Raffaele di Milano e direttore medico scientifico del progetto Oltre. Buongiorno professore, grazie per essere con noi. Ciao Nicoletta e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Direi che sicuramente il desiderio di novità e la volontà di sfidare l'estremo sono alcune delle motivazioni che hanno spinto molte persone a rispondere a questo appello lanciato da Petter Johansen, che è il pronipote del mitico Roald Amundsen, che aveva fatto la traversata moltissimi anni fa. È vero che ci sono queste motivazioni ovvie, ma per alcuni diventa un'opportunità molto grande per conoscere se stessi e forse per ritrovare se stessi. Allora, questo progetto si chiama Oltre, metterà i partecipanti nelle condizioni di affrontare un viaggio molto pericoloso. Rapidamente ci anticipa che cosa andranno a fare? Allora, loro partiranno verso la fine di novembre per raggiungere Capo Nord, poi attraverseranno tutto il bordo della Siberia, sostanzialmente nella parte che dà verso il mare Artico, fino a raggiungere lo stretto di Bering, questo con degli automezzi speciali dell'Iveco. Sfideranno quindi il freddo, meno 25, meno 50 gradi, il buio, la convivenza in spazi spezzi e il pericolo della natura presente tra ghiacci e oltre polari, ovviamente. La mente naturalmente giocherà un ruolo determinante in questa impresa. Ma direi importantissima, anzi fondamentale. Cioè, gli esploratori saranno sottoposti a livelli di stress molto elevati dovuti alle difficoltà legate all'ignoto, alla convivenza in spazi ristretti e alla limitazione della libertà di movimento. Non dimentichiamoci poi delle importanti variazioni della luce e del sonno che potranno influire pesantemente sull'umore. Per noi del San Raffaele sarà un'occasione unica per studiare le reazioni psicologiche delle persone in situazioni davvero estreme, in cui le debolezze di ognuno di noi si svelano. Professore, però c'è chi va oltre, anche fisicamente, geograficamente, come nel progetto, chi invece nel quotidiano deve fare delle scelte che non lo spostano di un pelo, di un metro da casa, ma sono altrettanto rischiose, impegnative, coinvolgenti. Allora, partendo proprio dall'esperienza di queste persone che lasciano tutto per affrontare un viaggio così difficile, scendiamo nel quotidiano. Lei ha qualche consiglio da dare? Sicuramente sì, teniamo conto che ognuno di noi nel quotidiano dobbiamo continuamente affrontare situazioni ignote e impreviste per prendere decisioni valide e star bene. La cosa importante è quella di raggiungere una buona fitness mentale, una buona mental fitness, e per fare questo dobbiamo ricordarci che dobbiamo essere armonici in tanti aspetti della mente, per esempio una personalità equilibrata, per esempio seguire i nostri ritmi biologici, alimentare il proprio cervello con gli omega 3 per esempio, allenare il corpo, ricorda almeno mezz'ora tre volte alla settimana, allenare l'attenzione e la memoria, imparare a comunicare e gestire con efficacia lo stress. Quando riusciamo a fare tutte queste cose diventiamo, come dire, in forma mentalmente, quindi pronti non solo per affrontare cose estreme come faranno queste persone, ma soprattutto per affrontare la quotidianità. Questi punti, non so, io ne ho contati 7, esatto. Sono 7, quindi non è un decalogo ma qualcosa che gli si avvicina. Li rimetteremo anche sulla pagina di Essere Benessere. E invece agli ascoltatori da casa, se siete interessati a sapere qualcosa di più di questo progetto che Radio 24 seguirà, la spedizione, questo questo posso già anticiparvelo, potete andare sul sito radio24.it, troverete tutti i dettagli. Intanto, professor Perna, buon lavoro, buon oltre e noi ci sentiamo presto. Bene, io saluto tutti gli ascoltatori, vi do un altro sito che è www.oltre.mobi, che è un sito parallelo in cui potete verificare come andranno le cose. Saluto perfetto a tutti. Grazie professore, a presto, buona giornata. Pronto soccorso. Dottor Fagioli, noi non partiamo, stiamo qua seduti sulle nostre sedioline. Abbiamo Alessandro da Bergamo, 824 0024. Alessandro, buongiorno. Buongiorno, grazie per l'opportunità. Volevo sapere dal professore, per coloro come nel mio caso che sono portatori sani di epatite B, sì, devono fare ulteriore attenzione a quello che mangiano? Grazie Alessandro, bella domanda. Dottor Fagioli, una risposta breve prima di andare ai mercati. Ok, beh, breve non sarà facilissimo, ci proviamo. Allora, sì, la cosa fondamentale è che l'essere portatore di epatite B comporta comunque di essere periodicamente seguito con degli esami biomorali del sangue e con l'ecografia, e questo è una standard. Mm. Dal punto di vista dell'alimentazione abbiamo già detto niente alcolici, sì, e per il resto l'alimentazione deve essere assolutamente identica a quella di tutti gli altri, quindi maggiore equilibrio possibile, privilegiare frutta e verdura, rinunciare un pochino a qualcuno dei grassi che sono così tanto buoni, ma che insomma qualche volta, dottore, è meglio ridurre. Meglio comunque essere attivi, quindi l'attività fisica. Assolutamente, sempre. È un'indicazione che va bene per tutti. Torniamo ad occuparci del nostro fegato. In linea con noi abbiamo il dottor Stefano Fagioli, che è direttore di gastroenterologia all'ospedale Riuniti di Bergamo. Stiamo parlando di quando magari per caso, tramite un'ecografia ad esempio, il nostro medico evidenzia che il nostro fegato è grasso. Dottor Fagioli, questa però è una condizione reversibile? Sì, certamente è una condizione reversibile, a patto che si ponga rimedio prima che le conseguenze in termini di vere e proprie cicatrici del fegato siano troppo avanzate per avere successo nel rimedio. Quello che succede è che quando c'è troppo grasso, sì, nelle cellule del fegato, e questo avviene per qualunque danno che subisce il fegato, non solo l'accumulo alimentare, questo innesca un meccanismo di infiammazione. La risposta a questa infiammazione è un tentativo di riparazione per quelle cellule che vengono a morire. E questa riparazione non sempre è strutturalmente adeguata, e quindi l'architettura del fegato che viene ristrutturato in questo modo a volte può essere alterata e portare fino a un quadro di cirrosi. Ripeto, avviene in pochi casi, in circa il 10% dei casi di chi ha la steatosi, però certamente a livello di steatosi o steatoepatite, cioè con l'infiammazione, una dieta e un'attività fisica spesso riportano il quadro in condizioni di normalità. In quanto tempo, dottore? Ma questo ovviamente dipende dalla condizione, perché sì, se la necessità di perdere peso è di pochi chili, allora è chiaro che è più facile e la risposta del fegato sarà anche più rapida. Mm. Ma è chiaro che se concorrono più fattori, il sovrappeso o l'obesità franca, un diabete, l'ipertensione, i grassi nel sangue, a mettere a posto tutto ci vuole un pochino più di tempo, possono volere anche dei mesi. Antonio, l'abbiamo fatto attendere, ci chiama da Roma, 824 0024, questo è il nostro numero verde, sempre a vostra disposizione. Antonio, buongiorno. Buongiorno a voi. Senta, io avevo telefonato perché ho 65 anni, 4 anni fa ho fatto un primo intervento di coronarografia con angioplastica. Sì. Ero un forte fumatore e ho smesso di fumare. Bravo Antonio. E fumavo di 3 pacchetti al giorno e ho completamente, ho toccato anche una sigaretta. Sì. Per poco tempo fa, a giugno, ho fatto un secondo coronarografia. Sì. Perché la vecchia si era occluso, il vecchio stent occluso, e lo hanno riaperto aggiungendo, okay, un altro stent. Sì, Antonio, andiamo però, al fegato. Dopo che ho fumato, dopo, sì, che ho smesso di fumare, ho acquisito parecchio peso, sì, in più. Già ero tendenzialmente grasso. Morbido. Adesso i chili si fanno sentire. Quanto, Antonio? Peso 115 kg. E quanto è alto? sono circa 1,75. Quindi non le dico quanto ha di girovita, mi faccio siamo intorno ai 130. Ecco, insomma, è un girovita un po' abbondantino. Antonio, quindi lei, sentendo legare il girovita, il grasso, il sovrappeso al fegato, vuole sapere che cosa deve fare. Dottor Fagioli. Diciamo è stato bravo e ha smesso di fumare. Sì, quello che ci sta dicendo è che ha molti dei cofattori che vanno a identificare quella che viene chiamata la sindrome metabolica, sì, che è un termine sostanzialmente che ci dice che l'organismo è sotto pressione per il peso eccessivo, probabilmente un'alimentazione non adeguata, per un'ipertensione arteriosa, e questo comporta proprio l'associazione di danno o rischio cardiovascolare, e il paziente l'ha già sperimentato, avuto. E molto probabilmente in un'ecografia sarà facile riscontrare che c'è un eccesso di grasso nel fegato, quindi sicuramente il periodo dei sacrifici per lui è continua, perché dopo aver smesso di fumare ci sarà il sacrificio più grande di provare a modificare la sua alimentazione. Quindi Antonio potrebbe controllare lo stato di salute del suo fegato attraverso un'ecografia? Sicuramente quello è l'esame più indicato in questo momento, assieme ad alcuni banali esami del sangue che con il suo medico potrà facilmente organizzare. Allora, seguiamo Antonio. Antonio fa un'ecografia e viene evidenziato un fegato grasso. In linea con noi abbiamo la dottoressa Maurizia Brunetto, direttore dell'unità operativa complessa di epatologia all'azienda ospedaliera universitaria Pisana. Professoressa, buongiorno. Buongiorno. Allora, noi siamo con Antonio, l'abbiamo accompagnato a fare un'ecografia. Il suo fegato è grasso, come si vede all'ecografia? Un fegato brillante, giusto? Il classico fegato brillante, di dimensioni un pochino aumentate, con i margini arrotondati, il cosiddetto segnale si diffonde, si attenua in profondità del fegato, si parla spesso, l'ecografista descrive una struttura addensata e iperecogena, cioè brillante. Brillante. Sono gli elementi che ci identificano una buona parte delle persone che hanno il fegato un po' grasso, in effetti. In alcuni casi si procede con altre indagini. Sì, si può procedere in effetti con esami ulteriori sempre non invasivi, cioè che non comportano il prelievo di un frustolino di fegato come la biopsia, e che ci servono a definire un pochino di più lo stato del fegato. Uno di questi, ad esempio, è la cosiddetta elastometria, sì, che è una tecnica che verifica l'elasticità del fegato. Il fegato normale è elastico. Se si ammala diventa meno elastico, progressivamente. Diventa meno elastico. Quelle cicatrici di cui parlava il dottor Fagioli, vero? A quel punto diventa rigido. Sì. Sostanzialmente il fegato duro, quando i vecchi medici palpavano il fegato, nel fegato è un po' ingrossato e un po' più duro. Sì. Ecco, allora questa tecnica sostanzialmente sostituisce la mano del medico di altri tempi, anzi io credo che tuttora il medico dovrebbe saper visitare il proprio paziente, però diciamo, ci aiuta, perché ci dà un parametro numerico e più oggettivo. È un esame non invasivo, dicevo, e quindi anche indolore, che permette di, praticamente una sonda induce un'onda elastica nel fegato, la velocità con cui questa onda elastica si diffonde nel fegato ci dice quando il fegato è rigido, e quindi ci distingue il fegato morbido elastico dal fegato francamente rigido, dal fegato con un'elasticità intermedia, e quindi noi medici o gli epatologi sono in grado di distinguere le tre condizioni: un fegato praticamente normale, un fegato che ha qualche problemino e che magari va studiato in modo più approfondito, un fegato che effettivamente dà dei segni di sofferenza o di una storia di sofferenze un po' più lunghe, e quindi da approfondire, certo, e da studiare con più attenzione. Quindi, dottoressa, questo esame permette anche di fare biopsie solo nei casi necessari. Sì, sicuramente. Di selezionare i fegati che vanno indagati, ecco. Ecco, sicuramente è uno strumento in più, un'arma in più per andare a personalizzare sempre di più gli esami più invasivi e quindi un po' più delicati. La biopsia ci dà informazioni aggiuntive molto importanti. Certo, questa elastometria non sostituisce, esatto, la biopsia, questo è chiaro. È un altro tipo di procedura, però sicuramente la biopsia fatta solo per vedere se c'è fibrosi o no, in taluni casi può essere evitata grazie a questa indagine. Grazie, allora. Io la saluto, la ringrazio per aver partecipato alla nostra trasmissione, e buona giornata. Buona giornata anche a voi, arrivederci. Noi andiamo a salutare Maria da Como, 824 0024, che avrà sicuramente una domanda per il dottor Fagioli. Maria, benvenuta, buongiorno. Grazie, grazie dell'opportunità. A seguito di alcuni esami, una specie di check-up, tutto positivo, ho fatto anche l'ecografia, è emerso solo un esame sotto la norma, che è la colecistectomia. Le transaminasi sono nella norma, uno sì. 19, l'altro 18 sì. e anche l'eco. Io sono stata operata di colecistectomia un po' di sì. anni fa. Dottor Fagioli. Alterato perché mi parlava di alterata colecistectomia, credo che sì. basta, sì, al di sotto della norma. Sì. Sì. Forse sì. il termine non è corretto, esatto. dottor Fagioli, si parla di coline? Pseudocolinesterasi. Perfetto. Colinesterasi, sì. Bene, vede sì. che questi medici ci aiutano con questi termini difficili, loro li fanno no, apposta. Sono confusa con l'intervento no, ma... che ho avuto. Grazie Maria, grazie Maria, ma loro usano i termini difficili così poi fanno bella figura, dottor ma Fagioli. Certo, lo facciamo apposta. Certo. Senta, non ci crede più. Maria. No, in realtà questo esame, la sì? pseudocolinesterasi, non è un esame al quale noi diamo tantissimo affidamento. Importanza. Dottor Fagioli, quindi un plauso a questi medici per il Nobel. Maria, possiamo dire quindi un esame che non è indicativo per la salute del fegato, quindi non deve allarmarsi, vero no, dottor Fagioli? Non deve allarmarsi, da solo dice poco e è bene che sia valutato nel complesso degli esami e della clinica e quindi non si preoccupi per una banale alterazione di questo singolo. Fantastico, parametro. Un'altra buona notizia. E siamo tornati insieme, in apertura di trasmissione abbiamo fatto ai nostri ascoltatori una domanda: contiene più vitamina C un kiwi o un'arancia? La risposta la diamo ora perché ci ha raggiunto il professor Pregliasco, virologo del Dipartimento Sanità Pubblica dell'Università di Milano, il nostro influenzologo preferito, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Innanzitutto diciamo, prima di dare la risposta alla nostra domanda, è giusto assumere alimenti più ricchi di vitamina C per proteggere il nostro organismo dagli attacchi dell'influenza o simili influenza come quella che ci mette a letto in questi giorni? La vitamina C ha ridotto un po' la sua forza rispetto al passato nella prevenzione. Oggi è dimostrato che è utile nelle situazioni più estreme, quindi in caso di sforzi notevoli o di permanenza in luoghi a temperatura più bassa. Però comunque sia è importante e riprende come uno degli elementi importanti dell'alimentazione per rafforzare le difese immunitarie e ridurre per quanto possibile le infezioni. Quindi e non a caso la natura proprio in stagione ci mette a disposizione prodotti ricchi di vitamina C. Ne contiene più il kiwi o l'arancia? Professor Pregliasco. In termini di riferimento quantitativo è più il kiwi che l'arancia, però è chiaro che come sempre è importante il trattamento, perché eventuali manipolazioni, trattamenti termici certo. o per esempio un invecchiamento, insomma un uso non fresco del prodotto riduce la presenza di queste vitamine, vitamina C e anche altre che hanno purtroppo una vita, una sopravvivenza minore rispetto alle altre parti di questi frutti. Comunque se lei dovesse scegliere a maggiore quantità il kiwi, vero? Esattamente. Professore, io la ringrazio per essere stato con noi e per averci dato la risposta giusta. Grazie, buona giornata. Arrivederci presto, buona giornata. Ed è Maurizio che ci ha scritto per primo, ha mandato un'email a essere benessere@radio24.it, dovete mettere la risposta giusta e poi dovete mettere naturalmente i vostri recapiti e il numero di telefono. Maurizio, grazie all'iniziativa di Internet Book Shop, riceverà a casa il libro dal titolo Manuale pratico di rimedi naturali, 200 ricette per curarsi con gli alimenti e migliorare la qualità della vita. Orme Editore. In collaborazione con IBS.it. Fegato a noi, 824 0024, in linea con noi il nostro dottor Fagioli. Abbiamo Gianni che ci ha raggiunto da Roma, buongiorno. Buongiorno. Gianni, siamo pronti. Sì, volevo fare una domanda. Sento dei continui disturbi dalla parte destra, sotto la pancia. Sì. E niente, l'altro anno sono stato ricoverato d'urgenza per una colica renale, che poi non c'erano calcoli. Sì. E niente, volevo sapere, è un continuo, diciamo, non continuo, però ogni tanto sento dei disturbi sempre dalla parte anteriore e poi dalla parte dietro sul lombare. Ha fatto bene a chiamarci Gianni, grazie a lei, a dottor Fagioli. Ma il tipo di disturbo che descrive in effetti fa pensare a un problema biliare. Se poi insorge dopo un pasto abbondante o in particolare dopo comunque aver mangiato è ancora più probabile. Il fatto che si irradi verso dietro posteriormente, anche questo sembra avvalorare l'ipotesi che si possa trattare di un problema biliare. Non è infrequente che poi quando si va a studiare la via biliare con un'ecografia non si riescano ad evidenziare dei calcoli, perché magari era un calcolino piccolo della bile più densa che è passata e non ha lasciato più segno di sé. E certamente se il problema persiste vale la pena di approfondirlo, da una parte studiando magari con qualche tecnica un po' più raffinata le vie biliari, con una colangiorisonanza per esempio, oppure andando ad esplorare l'ipotesi che non si tratti invece di un problema che non riguarda la via biliare, ma ad esempio il colon o la digestione in sé. Quindi è chiaro che va studiato il problema visto che si presenta con questa costanza. Dottore, volevo chiederle, abbiamo detto che sicuramente rimettendoci un po' in sesto, in regola, molto probabilmente il nostro fegato grasso ritorna in forma. Certo. Quindi un aggiustamento alla dieta sicuramente, all'attività fisica e tutte quelle cause che hanno in qualche modo portato il nostro fegato ad ingrassare. Quando si danno i farmaci invece? Ecco, questa è una cosa importante perché ovviamente i pazienti arrivano con un problema e il farmaco è la soluzione più semplice. Sì, sembra un po' una scorciatoia. Esatto, allora partendo dal presupposto che il vero obiettivo di ogni persona, non di ogni paziente, è di prendere meno farmaci possibile, possibilmente vedere quanto meno possibile i medici, e questo migliora sicuramente la loro vita, bisogna convincerli che bisogna lavorare davvero su tutti quei fattori di cui abbiamo parlato. E lavorarci davvero vuol dire che bisogna averli comunque risolti quei problemi, quindi il sovrappeso, i grassi nel sangue, l'attività fisica che se non si fa bisogna cominciare a farla, se c'è ipertensione va corretta, se c'è un diabete o una tendenza all'iperglicemia va corretta. Una volta fatto tutto questo, allora può diventare ragionevole considerare delle sostanze, è stato citato prima il cardomariano che sicuramente ha delle capacità antiossidanti e protettive nei confronti del fegato, ma ci sono altri composti come gli acidi biliari che sicuramente hanno un effetto di fluidificazione della bile e di protezione del fegato, e stanno uscendo adesso altri prodotti volti proprio a migliorare la funzione della cellula epatica in chi non ha una malattia grave ma ha un deficit iniziale come la steatosi. È un po' all'inizio questa terapia, non c'è un farmaco principe per questo, e quindi a maggior ragione bisogna basarsi su quelle regole di vita e sulla correzione di quei fattori che restano il primo passo da compiere. Dottor Fagioli, io prima di salutarla, e lei è stato molto bravo, la invito ad ascoltare con noi, così tanto per rilassarci, per riflettere, per portare un po' la mente altrove, no? Al nostro fegato, questa pillola di interessante, di saggezza direi. Noi l'abbiamo tratta da un libro che a me è piaciuto molto, si intitola Lo Zen e l'arte della comunicazione. L'ascoltiamo insieme al dottor Fagioli e poi ci salutiamo per bene. Gli atteggiamenti del corpo e le espressioni del viso possono determinare le emozioni. Per comprendere meglio questo concetto, vi suggerisco di provare il seguente esercizio. Sorridete qualche istante con ogni muscolo del vostro viso e soprattutto con gli occhi. Noterete sicuramente uno stato d'animo più allegro e sereno. Avete visto com'è semplice? Quando vi sentite depressi, oppure quando una situazione vi mette un po' a disagio, cambiate l'atteggiamento del corpo, alzate le spalle e la testa, sorridete. Simulate un comportamento fiero e sicuro di voi. Automaticamente il vostro stato emotivo ne sarà influenzato in modo positivo. Dottor Fagioli, magari anche il nostro fegato ci guadagna. Questo non lo so, ma insomma mi piace pensare che sia così. Dottore, ci guadagniamo noi sicuramente. Dottore, intanto la ringrazio e le auguro una buona giornata. Grazie a te Nicoletta e un saluto a tutti. Grazie per chi ha ascoltato il nostro programma. Appuntamento come sempre domani dopo il GR delle 11. Un saluto da Nicoletta Carbone.